l'alimentazione. Quel che ha messo l'alimentazione è degli inoiti. Prima di attaccarglielo prova, boh, se le connessioni sono giuste, se le polarità sono giuste, per me sono giuste perché mi indica direttamente come carretto, positivo o negativo. Capito. Va bene, d'accordo. Domanda e risposta, molto bene. No, perché è un peccato. Lo voglio sistemare, mettere a posto e mi ha dato l'ok, quindi lo mettiamo a posto, poi vediamo cosa ne può fare. situazione qua. Hola, la cipolla, buonasera. Buonasera, hai guardato, stavo aspettando. Salighera. Allora. Questo qua deve essere quello dell'altra volta, come si chiama? Adesso mi viene il nome. A me come mi ascolti lì all'Alghero? 707, classe, sai chi è? Già l'hai riconosciuto? Non so chi è, arrivo basso quale radio. Il segnale è uguale, la radio è sempre uguale. Aspetta un attimo, Franco. Vai! Cos'è che devi attaccare? L'antenna 1 devi attaccare lì, cioè l'antenna 2 devi attaccare, sì. Segnale di Franco e vedo un po' se è 9.40 o quanto è, bro. 9.40? No, perché il mobile c'ha la stessa notte del telefono. Per quello lo metto a gareggiare a pari potenza. E se no, cosa fai? Io sono a pari potenza. Tu sei 9 più 15. Già Luca se ne prende un mare. Invece con Franco sono lì. Maestro. fatta la Luca nei confronti di Franco, è uguale. Allora, comunque, io me l'aspettavo questo baramano, non ce la fai, a risare il sorpresa, tu con la Fariette, lui col Mobico, non ce la fai a passarlo qua. Ti frega, tu chiaramente chi ha più forza spinge, però a risare il sorpresa non ce la fai. Allora, sentite a Roberto Quadrato, no? Invece, che questa storia è chiusa, quindi qua a me passa Luca e non si discute più con nessuno. Allora, Luca, sei secondo, dopo Roberto. Avanti, Roberto. Allora, ti dice Martino, come mi siete con questa radio? Ciao, Roberto, io già ti ascolto un po' meglio di prima, però come segnale non arrivi qua perché sono senza antenna io, dai. Allora è diverso. Va bene, allora Roberto, dice, hai giocato a pallone? No, vabbè, giocano gli altri, io allevo il bu, giocano i ragazzi. Oh, e beh, sei soddisfatto della radio, del lavoro, tutto? Sta, lavoro di prima classe. Non ce n'è, già va bene, adesso l'unico lavoro che devi fare è questo qua, tirare su con l'antenna, tiranti, e tu sei stato per comprare, buono, lo trai, tutto, non sentire dove come arrivarli. Napoli, avanti. C'è gente sovrammunda, se non parla non una volta, ma è sempre ricco. C'è qualcuno che si vuole solo usare, non ce la fa passare. Vabbè, se hai parlato una volta va bene, altrimenti anch'io chiudo perché mi sono tuffato di questa sovrammodulazione, di questa rottura di scatto. Se parliamo bene, tranquilli e sereni, altrimenti abbasso questo volume e me ne sono un altro. Avanti Mario. Due lavori praticamente, fatto. Pensa che quasi quasi non sentiva manco la sofferenza del mal di schiena, talmente che era contento. Va bene, là. Riprendi Claudio. Mi piaceva più il fatto che Roberto avesse buttato con l'antenna, e siccome sono talmente puntigliosi, quando noi tutte le cose la faccio. Luca ieri ha fatto una battuta, che aveva dubbi, ma ha fatto una battuta, sono sicuro che finisci perché conosci, sono molto puntiglioso, ma era una fila tra me e l'antenna, e quindi ci siamo riusciti. Anche con un po' di difficoltà, perché Roberto ogni tanto si doveva allontanare, insomma c'è un bene così, sono contento per Roberto che aveva acquistato l'utilizzo della penna e soprattutto andando bene anche di radio adesso. Devo toccare da questo perché la radio va bene ed è anche troppo amplificata, quindi lasciala così, va più che bene quel microfono. Adesso vediamo se tra gli anni si è aumentato qualcosa da lui, qua si è aumentato di 20, più 20. A Franco volevo tenere il controllo. Rapporto di te, segnale è 59 più 20 dB alla mia stazione. Tu ho migliorato la cosa. Papa, prima di 9 e 10, hai guadagnato 10 dB in più. Papa. E io come ci sto arrivando lì alla tua zona? Uno di più frutti c'è, insieme a Cosmo, a parte Claudio, insieme a Luca, hanno così 15. Cava così tipo, andar bene meglio, un attimo vado a prendere la cedio, riprendi la salita. Franco, ma è in gestione, guadagnato qualcosa? Quindi? Ricezione. Sempre per 40 c'è Luca. Fatto, non ho guadagnato niente, 40 la stavo andando. Sì, vabbè, oramai l'ho cambiata perché era tutta messa a mano. Funzionava ancora con l'antenna. Ah, sta come prima, sì. Ci vuole di prima. Di l'altro te l'hai messo. Ci sono appettinati, ma ci sono due dubbi leva, uno tra l'altro. Uno da un pollice e mezzo, l'altro da un pollice dentro. Chiara, bella, chi più ne ha più ne metta, gama. Sono contento dei complimenti, dai, che ci voleva, non ho potuto una delusione l'altro giorno, ma ieri è tutto di Claudio, ho fatto tutto questo, tutte le modifiche sono roba sua, mano sua. Proprio, la radio forte, forte, ma c'è tutto fuori di tavola. E è modificato. Gappa, e andava bene, Roberto. Ah, se vedi tu, se te la puoi sollevare un'antenna, se la sei lì, diceva la chiusi. Vabbè, prima volevo cercare le zampe per fissarlo, prima le zampe, le ambulanze, fatte grosse, per posso levare così, fa le belle robe. Ma chi è il ore fischiato? Cazzo! Non ho sentito anche io un micro. Ah, non sono qui, quello sta fischiando, Non ho sentito niente qua, Roberto, non si muove, manco lo straniero, è 9 più 60, quindi si rimane attraverso la montagna. C'è qualcuno sotto, vabbè. La roba è tosca, cioè, la te no, ma roba è tosca. Vabbè, inizia a mettere in cantiere la qualificazione che abbiamo deciso, poi vediamo se ti piaccia, capito? Perché lì a monte sono tutti vicino, tutti in giro lì. Cazzo mai che visi a un gruppo in giro, a parte questi che parliamo noi, c'è un po' di gente. Tutti quanti con le radio, la canna ne sono quasi sul bar. Purtroppo le imbecilli ci sono da tutte le parti. Dunque, quali è? Il coso l'abbiamo risolto, guarda. Siccome ci sono bisogno di arrivare allo stilo della magnetica. Ma, vedo così. Perché a parte con quel capo non è che ricezione. Ho attaccato qua un pezzo di lamiera in casa e c'è con QRM. Non c'è neanche ricezione con l'antenna, capito? Poca ricezione. Ah, se non è la proviamo il furgone e poi vediamo, ti dirò. Allora, ecco, ma non sono sicuro come hai detto tu, sicuramente il cavo era mezzo andato, perché mi stava facendo rifletto anche a me, solo io, ma di idratare uscì, hai fatto bene a controllarla e sistemarla. Però poi metti in cantiere con la qualificazione, iniziamo a stabilire le tappe e tutto, dove vanno, dove non vanno, da sì. qui si gemello di quello, sono più alto, tubo d'acqua. Vedo da voi la situazione come cambia, perché superi quella casa che c'era avanti, si stacca là dal muro, c'è un radiale sopra il muro, radiale sotto che era un muro, e c'è micidiale con la posizione, se sulle rivantonna lì, lui è. E capo, sicuramente migliorava parecchio. Ho fatto bingo, l'ho preso, bingo. Comunque, Robè, ti stavo parlando di te, Senti, ti stavo parlando di te, ti ho chiesto che Robè sono tappezziere e ti conosceva, però mi ha detto un cognome, ma diciamo quel cognome non è il tuo, quello l'ha detto lui. Con la F inizio. No, ma l'ho sentito. Infatti mi ha detto che c'è la capelli un po' bianchi, l'età 45 anni, sì, ma mai tolto con noi, una pirista mi sembra. E che con Roberto ci conosciamo benissimo, forse è stata vicino alla persona. Babbo, io ho il carrozziere, che è la mirista, ma mai tolto con noi, con la S adesso. Mi conosce Roberto, se abita di fronte a me, ma così non mi conosce, forse tu mi sei un'altra persona. Ma la S inizia, così è. Così. Sì, è giusto, ma ho fatto. No. È giusto. E non mi conosce, cosa detto che non mi conosce? Sì, già sei tu, già ti conosce, Avuglia. E già lui si mi conosce. E già sei tu allora, cava. Di fronte a te abita. Stavo dicendo. Mi dirà, cazzo, mi sta distruggendo il televisore. Non lo dice Roberto. Ma sto scherzando, dai. Sto scherzando, cava. Facciamo girare. Non abbandonare Roberto, ricordati di quella cosa. A chi sei dal microfono? A Mario, vai Mario. Perché sono sempre più forte. Cazzo, meno me. Cos'è toccato Mario? Yeah, sure. aumento l'altro scatto, lo metto a 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allora, viene a fare, arrasta. Metti Mario a 2, metti a 2, metti, se no comincia a avvicinarti troppo qua. Veramente, se riesci a tirare leggermente più E poi comunque fino adesso diciamo che prima sei tu sempre clare, tu sei a 9.20, 9.22, stai oscillando così. Franco, sei molto vicino, Franco. Ah, vabbè, ok, avanti Gianni, buonasera. Se non ci sei fatto, vai, non le spingiamo. Sta arrivando bene, bene. primo può essere sì, ciao, perché voglio dire, ma c'è caso che già serve qualcosa in più, proprio di, a livello di B. Però fra te e Franco, oppure, ripeto, qua da me, con gli assassini magari tutto cambia. Ma tu considera che sono andato via, sono più lontano di tutti, però. Per quello che sto dicendo che c'è qualche cosa che è proprio nella stazione proprio che cambia. Io non so, se volete fare una prova, magari trovo a Franco, sto da parlarci sopra tu, se riesci a passarlo. Fai questa prova, fra. Partiamo. Sinceramente è chiaro che se poi si trasmette con più potenza perché Mario qua mi fa da 9 più 30 a 9 più 40, quindi è chiaro che poi il fastidio c'è. Con con Franco qua dovrebbero arrivare uguali e con gli stessi watt, mentre Franco arriva mille volte più forte. Perché? Perché già nei miei confronti non c'è Franco. Il segnale è sempre lo stesso, allora io preferivo l'altra però E il capo, vabbè, la radio questo è il microfono a brindisi, cosa pretendi? È un Intec di quelli low. No, vabbè, il segnale è sempre lo stesso comunque, non cambia nulla. No, cioè, segnale quasi, aspetta, fai un passaggio, vado a raccontarvi, perché fa un passaggio. Prova a vedere, se lo guarda bene, se cambia qualche cosa. È leggermente più basso, ma non molto, non molto, sai, un 5 dB più bassi. Scappala, va bene così. Vabbè, dai, abbiamo finito le classifiche, fatele. No, queste non sono le... No, sono come si dice, per le posizioni di partenza. Oggi abbiamo fatto la griglia già, domani iniziamo a gare, va bene? Infatti io sarò l'ultimo sempre, non mi interessa. Interessante sentirsi. Avanti, Luca. No, io volevo dire... Questo è Mario, visto che Gianni è al monte, Claudio è, insomma, di casa a Matti, non è al monte, è a Carbonazzi, basta Claudio qua. Luca, cosa vuoi che ti dica? Claudio è sempre nato e domina tutta la città, indipendentemente dal fatto che lui è lì, lui la domina tutta la città. Io non lo so se tu sei mai salito sul tetto di Claudio, però io sono sicuro che se tu sali sul tetto di Claudio la vedi tutta la città, e se guardi nelle direzioni vedi il Sentino, vedi la Senara, vedi Alghero, capito? È quello che conta di più, che più in alto sei, a scendere si fa in fretta, e a salire che tu quando scendi la scala scendi correndo. Quello che devi fare salendo le fai piano piano, anche se no ti vai nella panno. Così è. E così è la radio. A scendere scende bene, a salire viene male, perché giustamente sei in salita. È tutto il discorso mio, Luca. Non è che poi giustamente un'antenna dall'altra per dire si vede e va bene, ma fare Gianni è nascosto da qualche palazzo e lo deve scavalcare quel palazzo lì, e così che già sto perdendo tutta la potenza per scavalcare il palazzo. Quando arrivi a De Claudio praticamente è muscio tutto lì, è andare, non c'è problema, non c'è problema. Riprendetela, ripetela, se va tu. Basta, comunque, guarda, mettiamo all'asta le spillole, Luca, ti prendo un po' di spillole. Ah, no, negativo. E guarda che è bello, è bello. Mi puoi dare fino a 800, 800 vitamine. Non ci sono molto qui con la ricarica, già non guarda, stavo malacchino, più che ci sono andato. Ma ormai il contatto te la basta luce a te? No. Che ha transito? Appa. Infatti la differenza è quella, Salvatore. Quando è transito già ce la fanno questi nuovi contattori, altrimenti nulla va. Franco! Claudio! Io volevo chiedere, ma io adesso c'ho il maracchino normale, no? Anche se è stazione base, però si può fare o si può vedere se c'è le luci del mic e della radio, diciamo così, se si può aprire o meno. Certo si può vedere, che radio è? Te l'ho detto, questo qui è l'Argus. E tu apri la luce? E c'è una bomba così. E sino che non trovavo un microfono migliore, volevo provare per vedere se la radio migliorava, cioè se spingeva di più. Perché non è tanto segnale, è la radio quella che conta. La radio è difficile. Mario, facciamo una cosa. Prima si trova un microfono da tavolo, capito? Prima si trova un microfono a tavolo, poi vediamo, perché se con il microfono a tavolo spinge, la luce si lascia così, se non spinge allora magari si apre leggermente la LC. Speriamo di riuscire a trovarlo questo microfono. Ma io sto batticando anche adesso, sto guardando. giudicato quel pezzo di cesso che stava partecipando, secondo me lo mettesse il padrone e se l'ha giudicato per 52 euro, capito? Mentre c'è sempre quel tale più 3D che però è troppo alto, adesso sto girando le pagine a vedere se c'è qualche cos'altro. No, qua non c'è più il tale più 3D, vedi cosa c'è scritto, se non lo fermi più, che voleva togliere l'asta, ma è bene, non era consentito. Quindi non fare rilanci perché tanto non lo dà. C'è Romagna, ma è tanto la chiaro. Ma per il Bravo Plus non è caro, ecco, la cifra è buono mio, Ocla, cattedra è ultimo. Ma non so cosa è successo, praticamente sono partito l'asta con l'ho visto un euro e c'era un'offerta. E mancava un giorno, praticamente ieri, un giorno e qualche ora. Ho iniziato a rilanciare, ho detto, ma avrei sicuro 3 euro. Le ho mandato 3 euro e dopo un secondo, mi confermo, dopo un minuto ti hanno sorpassato di bomba, 3,50 euro. Ho detto, vabbè, 4 euro questo mi manda 4,50. Alla fine mi sono truffato 5 euro, le ho messo 5 euro di botto, 5 euro e non avete 6 euro. E qua si è trovato sul bastone, ma non ti aveva neanche il tempo di confermare. Come confermavo, mi diceva che non ero il primo, c'era sempre questo Roberto 9658. Quindi per me lui l'ha messo in automatico, fino a far venire la cifra che voleva. Sì, sicuramente lo stava facendo quello. Magari voleva portarlo fino a 50 euro, ma si può attaccare, è buono. Quanto era quell'altro, non il Plus, non il Bravo Plus, un altro, quello che stavo, che avrei dovuto prendere io. 83 lo stavo letto, mi stavo fatto leggere, mi sembra, no? 83 io l'avevo giudicato e non l'hanno mandata ancora. Ma lì c'è qualcosa che non funziona, sabato. Per il semplice fatto che praticamente lui l'ha messo sicuramente a 100 euro, come ha detto Roberto, capito? L'ha messo a 100 euro, perché se tu adesso rilanci, se tu rilanci è a 52 euro, se tu rilanci 53 euro, parte direttamente automatico 54. Lui deve raggiungere la cifra che vuole come pesami, capito? Se non a mano mi butti, un saluto plus io lo posso pagare 50 euro, non di più, 50 euro sono 100 nella via, sabato. Ma se andiamo a 80 euro, 90 euro, preferisco comprare microfoni più professionali, capito? Tipo una Ronis che si può mettere sul barattino, cosa ti posso dire? Tipo un Tamer più 3 che per me è sempre superiore, un Tamer più 2, oppure una Shure, cioè microfoni di questo genere, capito? A quella cifra, se non sai, io non lo compro a 80 euro, che sono belli, no? 80 euro si trovano gli MC60, capito? Tutto lì. Ok, facciamo girare per Roberto Corrato, dai, vabbè, parla di qualcosa però. Guarda, la cosa abbassa appena, qua c'è un po' stato troppo forte. Ma aspetta che abbassa il fratello troppo forte. Ecco qua, mettiamo 10 watt perché poco fa stavo facendo appena con Mario, sono andato a 50, ma siccome siamo troppo vicini, bene va così. Capa, no, guarda, prima adesso mi sono spostato in distanza, sono vicino, la sto parlando, però era troppo, grazie, diciamo troppo forte. Bisogna tenere potenza in base, altrimenti non mi capisci. Capito, sabato, questo era un deficiente, e così l'altro giorno lo stesso mi è capitato. Ma pure mi subito i pantaloni già, c'era uno che io rilanciavo, ora mi ho rilanciato e si è bloccato. Aspettando che rilanciasse e si è bloccato. Perché cioè, se uno c'è davanti al video che tu rilanci va bene, ma questo non c'è, perché tu lo rilanci a qualsiasi ora, no? A qualsiasi ora del giorno va automatico, quindi qualcosa c'è che non va. Appagata, è normale, lo mettono in automatico, mettono una cifra potenziale praticamente posso mettere 100 euro là. Fino ad arrivare a 100 euro ogni volta che tu rilanci te lo aumenta. Ma già, ma è una cosa, un'altra cosa anomala è questo, compra subito ma sempre l'acqua, cioè con un minimo ma c'è l'acqua. Sì, ma puoi comprare subito direttamente, tu dici a 61 euro compra subito, tu non partecipi più all'asta e con 61 euro te la giudicando. Sì, ma devi superare, cioè devi mettere la cifra che ha già stabilito lui, non partire mai da una cifra bassa, cioè compra subito vuol dire che lui ne vuole di quell'oggetto 100 euro faceva, ecco se tu gli dai 300 te la subito allora. Grazie. Oh, Gianni, guarda che c'è la prima, scusa un attimo, c'è la turbo 2001, costa una cazzata qua, io ho pagato 60 euro, costa 34 euro. Ma non l'ho finita la progetto? No, è compra subito. Ah, compra subito la marcia, ma l'ho detto, no, non mi serve. Avanti Roberto Gianni. Gianni, tu hai mai venduto lì, roba tua? No, negativo. Venduto l'ho solo comprato. No, perché mi ha detto, se non vuoi non trovare i diritti, però quanto sono i diritti, lo sai tu? No, potresti chiedere a Luca Flipper, perché lui lo fa. Allora, ok. Vieni qua. A quanto ce l'hai il microfono, sempre a tre? Come l'hai lasciato tu, normale, a tre. Non l'ho messo a quattro. No, mi sono messo sbagliato adesso, mi sono più distante, mi tieni presente. Ah, ma allora lascialo così. Hai visto? Puoi parlare anche da lontano, adesso non lo metto lì sul microfono, grazie, voglio ero molto piccolo, ma poi chi c'è l'importante? No, perché adesso questo è un mobile lavoro, però chi ti tocca lì lì puoi fare per scherzare. Allora, basta se lo modifichi subito. Manico, non puoi rimandare, io riprendi. Preso un miglio, 10 euro. Avete ascoltato, sono andato a carabinieri, prete voi, già c'è il caso di arrivare dopo. Lo vado a fare in televisione. Ma è Franco Telefonia che fino a fatto, Franco. Franco si era arrabbiato con tutti i fibroni, Franco. Forse è andato a farsi la luce. Avanti Mario, fai girare, vai. Mario, ancora. Mario. No, guarda, chi entra, chi esce. Va bene, Salvatore. Ehi, K. No, forse sarò un tratto, Mario, un attimino. Che va bene, che microfono c'hai, Robe? Meglio più 4. Ah, K, bello. Bello, no, si era cambiato un po' la numerazione. Ma non la mettere un po' più in su con l'antenna, perché ho Robe. Sì, non ho messo la posizione senza la tirata, ma ho messo un po' da 2,5 metri, sono in posizione alta, però dietro alle mie spalle c'è la tomba della scala, devo superare quello se voglio migliorare. Ah, e quindi quanto vuole il palo? Oh no, uso come parete la tomba della scala e poi lascio, cioè 3 metri in più, 1 metro in più guadagno, perché mi attacco il palo alla parete della tomba della scala e poi con 2 metri la metto oltre la tromba. Vedrai quanto aumenti, vedrai. Oh, l'abbiamo fatta oggi con Claudio, dopo la lavoro, mi danno l'idea, lo metto di colore, ma l'acqua. Cappa. Vabbè. No, perché se sono arrivato troppo, vedrai quanto migliora ancora, Ma sono certo, sta già arrivando bene, ma soltanto basta per arrivare al top proprio. Visto, c'è partito l'antenna interna, Ho passato con l'antenino in dotazione al portatile, poi una gran play dentro la stanza, poi da dentro la stanza la giubbussa fuori di gas. Brava, sono venuto a grandino, diciamo, il primo grandino dell'antenna, ha fatto la testa, va bene, va. Cappa, te lo vedrai il giorno d'anno, ti vediamo con i cable, i ricco, gli aesi, lo vedrai, me. Oh, e quelli ci vogliono i soldi però. Passione ci vuole soprattutto, perché poi se c'è la passione un po' di risparmio e si arriva. Prima ci vuole la passione. Cappa, purtroppo io questa passione l'ho avuta da piccolino e non ho mai potuto metterla in porto. Adesso da grande mi è venuta, mi è ritornata. Vabbè, vedrai che la continui. Ok, riprendi già. E sta moglie d'accordo, Robè. E domani. Immaginavo. Ma Robè, l'ho vista abbastanza tranquilla stamattina, No, già tranquilla, là. Non sono preso, ma sono stato accordato sul baracchino, anche la piccolina mi ha detto, ma sono con questo baracchino. Vabbè, allora niente, ma dove è andata? La cipicciata? Sì. Ah, mi dice che se mi chiudo la porta per isolarmi dal resto della famiglia. Cavolo, vabbè, la mangerà, non c'è problema. sono impegni grossi, io lo stesso ho mollato dove faccio il servizio ambulanza, ho mollato perché a una certa età i figli vogliono seguiti, diventano grandi, bisogna seguirli, non si può lasciarli, non abbandonati, perché io ero presente lo stesso, però tante volte ti capita un servizio fuori, una cosa, e la domenica magari non la passi in famiglia, capito, e ti metti anche i problemi. Ma già, almeno quello è sul sociale, c'è cioè, un utilizzo, diciamo è uno scopo, un fine anche ben preciso. Il calcio è proprio solo passione. Passione è molta amarezza, io non lo dico roba amarezza perché poi cosa succede? Che è un ambiente che sta cambiando. Ci sono più cioè, tutti vogliono soldi, da appena iniziano a dare del calcio al pallone, non c'è rispetto diciamo per i valori, ecco, io boh, francamente è un po' quello che mi ha fatto anche lontanare roba. Ciao, faccio quella ragione, condivido. Nei paesi pagano, diciamo, sono pieni di soldi, pagano i ragazzi, ma no, non poco, no, 300-400 euro, ma giocatori di testa, fuori di testa, cioè è ovvio che non puoi competere, ecco che dice, a senso di squadre che funzionano, che salgano su, non ce ne sono, non ce la fai a competere, e poi di testa, io l'anno che c'è altissi, sapevo stipendi che neanche in eccellenza davano, robe. E questo è il tutti da 2 anni fa. E capo. Per il sorso quest'anno, io conosco molto bene Alessandro Maciucco e ho confidenza con lui, è quello che ci segue sulle circolazioni. Mi stava dicendo che lo stesso vincono soldi a più non posso proprio. Perché lei si uniscono e arrivano soldi a casa proprio a palazze. E poi che lasciato, dimmi quanto prende il portiere, 1500 euro al mese. E capo, ma adesso sappiamo chi c'è. C'è Franco che è quello già, quella oltre alla passione ha sempre messo soldi nel calcio, Grazie a Mario. Ok, io non dico, non esito più. Ah, ha ragione, scusate, è che quando stavo parlando, scusate, ha ragione, Mario, scusate, ti ho lasciato in bianco, riprendi. No, infatti lo capire se ti ha notato, perché non era preso. Capito già, almeno tu facevi qualcosa di veramente che ti portava anche un po' di. Diciamo di orgoglio, ecco, perché mettevi il tuo tempo a disposizione per fare certe cose veramente importanti. E la stessa cosa dovrebbe essere per lo sport, ma non è più così, o già. Sì, ma mia moglie mi ha stato sottolineato che il volontariato si deve fare prima a casa e poi fuori. È vero, per carità, questo è verissimo. Ma insomma, se stavi riuscendo a coincidere le cose, il fatto di guadagnare. Questo che è la tua volta, che io nelle cose che non ho mai realizzato, fino adesso, spero di realizzare, se non ho più tempo, è andare a Lourdes con i tassi. È una cosa che tu ho in testa, voglio andarci a fare quel tipo di volontariato. No, da ragazzino sempre, non sono riproposto, più ogni volta l'abbiamo sempre rimandato, perché qua, perché viaggiavi con la famiglia, perché questo, però prima o poi ci voglio andare già. Io vengo a farti compagnia se ci vai, perché è un mio desiderio anche quello. Ah, è una delle cose, tu, guarda, io ci sono andato due volte li ho visti questi che portavi avanti, ho detto, però no, è una promessa, se ci ritorno ci voglio tornare sotto questa forma, proprio, e guarda, io spero adesso c'ho in ballo, no, l'aumento del capannone, quindi siamo un po' incasinati con tante cose, però per i ragazzi terminiamo tutte quelle cose, che i ragazzi sono più tranquilli, che mi posso sentare con più tranquillità, o già, non lo so, appena posso lo faccio, magari chissà che non ce lo organizziamo. Ma io intanto se vado all'Urso della Grazia non te la fanno, me. Mi ha mistero, me. Allora, prima ti hanno esonerato da allenatore, adesso vuoi andare con l'Urtasi a Lourdes, ma la Grazia si difende. Sì, anche se quella di Buonacello ti do va. Vado, vi ascolto che c'è la piccolina in braccio, dai. Male, ben sentito, vi avevo riconosciuto il signor va. Caspettina, e non per quello non ti avrei detto che ti hanno esonerato come allenatore. Già me lo ricordo, Radio Antonio. Vabbè. Adesso io non abito più in quelle zone, Giova, quindi ci passo di meno. Prima ci passo di meno perché non sto frequentando quella zona, perché proprio. poi ben risentito, mi ha fatto piacere. Ho ascoltato anche l'altro giorno, vuoi mettere saltato e poi anche se hai fatto un passaggio veloce. Ok, mi fa piacere ritrovare a mamma dei meccanici. Riprende Roberto. No, volevo chiedere a Claudio, se sei tu guai, su che canale devi fare su 10? Ma perché ti vuoi? Ciao, Gianluca, buonasera. Perché ti vuoi stai facendo? Guarda il primo, il secondo, il terzo. No, assolutamente, c'è il primo io, normalmente c'è sul primo, non è così, è pulito, limpido, niente. Ma non puoi mai farne, guarda, nelle condizioni in cui è l'antenna, poi le antenne sono un'altra parte, non puoi mai farne, oh Roberto, stai tranquillo, sereno. Vai tranquillo. Mario, si è allontanato, vediamo se Franco è rientrato, ci ha fatto la luce a Franco. Che sono, no, mi sono allontanato dal telefono e sembra che capiti giusto appunto la discussione del DUI. È venuto uno e mi ha detto che c'aveva il televisore che gli ballava. E io gli ho fatto vedere il televisore mio. Poco fa quando ho detto 1, 2, 3, 4 ero io. Scusate se, però c'avevo il volume basso. Però era per fargli vedere che il mio televisore non balla, mentre che loro ballava. Ma che cosa può dipendere? Mario, Gigio, guardate che è Gigio. Sì, ma Claudio, allora, io qui quando ho piazzato l'antenna ho avuto una mezza guerra. Tre palazzi. Fortuni, li ho fatti mettere a posto, a spese mie, gli altri no, perché diciamo che non mi interessava. Adesso se qui siamo un gruppo di 300 famiglie, io suppongo che ci saranno almeno 300 televisori, perché 200 non li disturbo e gli altri 300 ballano i televisori. Mario, lì si tratta sempre dell'impianto. Gianni ha, guarda, mi ha fatto una sua facciata di questo, ti può rispondere lui, perché io problema di questo genere non ne ho mai avuto dal primo giorno che sono arrivato qua. Ho sempre curato tutto e non lo so, io posso uscire da una potenza elevatissima, non disturbo nessuno, perché non ho niente davanti, che antenne ce l'ho davanti, soprattutto. Il problema è sempre l'altezza, ma l'altezza è chi ti sta intorno. Se c'è qualcuno che ti sta intorno con antenne all'altezza tua, per pur certo lo disturberai sempre. Eppure bisogna sempre vedere come l'impianto, se è centralizzato, se ci sono amplificatori, ma c'è questo montero attaccato, quindi tra amplificatori sicuramente non ne usate. Però Gianni aveva un problema che era dell'antenna TV, che praticamente era marcia, c'era di quelle direttive e quelle antenne non servono più a niente. Lì io non so com'è la situazione. È qualche giorno che capiti qui te lo faccio vedere, no, perché qui siamo 9 portoni, cioè per rendertene un po' l'idea. Siamo 9 fortuni, però l'unico che viene a lamentarsi che c'ha disturbi sono quelli del palazzo dove abitava Antenna 1. Ma è distante da te quello? E non è molto distante, quello sono 50 metri, almeno, forse nemmeno. Eppure sono solamente quelli di quel palazzo lì che dicono che io li disturbo e gli faccio ballare la televisione. Io qui attacco 1000 latte, non 800, no, io attacco 1000 locchi e ti faccio vedere che il mio televisore e quelli di tutto il palazzo nessuno balla. Ti spulsi, vai agli altri a fianco e nessuno balla. Vai all'ultimo a sinistra e lì dice che gli ballano i televisori, tutto lì. Bisogna cambiare l'antenna e basta. Ma infatti, ti ho risposto già, lì c'è a cambiare le antenne e mettere le antenne come ci deve, ma perché magari hanno quelle loro periodiche, quelle direttive puntate su Montero e sono delle mondette con le antenne, capito? Cioè mettere le antenne buone, ma le antenne che non attirino partite da Mombessa, capito? Vediamo un pochino se riprende Franco. Franco, non Franco ce n'è andato, se è stato rubato, senza niente, è trovato tutto e si è avviato. Vabbè, però facciamo quella prova, evidentemente non ha gradito. Ok, vabbè, prova a mettere appena appena a 4 col microfono, perché c'hai una tonalità, guarda, allucinante, cioè questi medi o bassi, non pensavo neanche io che col microfono, con la tua modulazione si sentisse così bene, quindi puoi aumentarlo leggermente, prova a metterlo a 4. No, adesso sono andato a tenere questo perché sono sdraiato, per quello magari può essere cambiato qualcosa. Se guarda verso il secondo canale, assolutamente nessun disturbo. No, non disturbi. Senti già con questi, con il microfono, con i medio bassi, c'è una modulazione buona, Già. Bello, è bello. Una bella tonalità, forse mi si avvicina di più a lui il canale più 4. Veramente, mettilo a 5 Roberto. Uno, due, tre, prova Roberto Quadrato. Faccio la 5, grazie, ha fatto una bomba. Comunque Mario, il discorso dei disturbi, possono essere anche l'isolamento del cavo d'antenna, vai, l'antenna è perfetta, però entra dal cavo d'antenna il disturbo. Non diventa barattolosa, se io lo superavo più di 3, non beh, diventava barattolosa, ma senti Mario, sì, passaggio a 5 è perfetto, lasciala così, ha ragione Claudio, lasciala così. Qua in lontananza stai arrivando perfettamente. Lasciala così, Robert. Va bene. Capo. Quali tutti i passaggi, Robert, vediamo qual è il migliore di passaggio. Un attimino mi metto in posizione che sono sdraiato, mi metto subito a mano. Ah, adesso ti puoi anche sdraiare, Robert. Allora, 1, 2, 3, prova Roberto Quadrato. Vai, Salvatore. Vai, Salvatore. bene. No, volevo semplicemente capire perché su 300, che poi sono anche di più perché ci sono anche altri palazzi a fianco, però non disturbo nessuno, disturbo solo quelli lì e boh. Ma lì Mario, io ti posso rispondere con molta franchezza, per me in quelle persone lì ci sono antenne vecchie, antenne non valide, antenne così, come chiaramente i carri, quelli vecchi, perché io ho visto Gianni, tutti davano la colpa a lui, baracchino, come lui, la persona molto tranquilla, ha detto io sono a posto. A me mi potete fare tutti i controlli che volete, però per conto mio, tecnicamente approvato, le antenne sono sostituite. Hanno sostituito le antenne, hanno messo i carri nuovi, tutto, e il problema si è risolto con molta tranquillità. Quindi per me lì queste persone hanno un impianto di quelli vecchi, carri vecchi, antenne vecchie, magari non ci sono mai saliti sul tetto, capito? L'unico problema è derivato sempre dal fatto che l'usura dell'antenna stessa ti provoca rientro di varie frequenza, ti provoca disturbi, vedi il televisore effetto neve e così via, quindi tutte queste cose poi vanno a influire sul fatto che davanti al tratto c'è Mario Massa che sta trasmettendo, capito? Mario Massa, la moto della rotella è lì sui, ma è Mario Massa che sta trasmettendo, tutto lì. Kappa. Adesso se ci dici in settimana fammi quella coppia là e il corso che poi una volta che è tutto regolare che c'è il versamento del corso vedi che non le faccio uscire lo spirito che gli dico di comprarsi una terna nuova, no, perché in quel palazzo lì non si comprano i televisori del plasma però non si pagano la bolletta dell'ascensore che sono i burattini. A me se ne posso baciare la gara, eh. Oh Mario. Pappa di me. Su che canale entra il canale 10 del baracchino? Su questo faccio lavoro tuo, come se faccio TV Rai? Non lo so, io a me sono venuti e mi hanno detto, guarda che c'ho il televisore al plasma e mi balla. Sì, ti hai comprato 4 milioni di televisore, da cui non paghi il condominio, non paghi nulla, non vi cambi di antenne, non vi cambi di nulla. Arrivo e da qui andrò a mettere che ti mandò il televisore, ti mandò la tenna e buonanotte. Ne hai preso di milioni e poi finì pure a 60 in più. Ma cosa succede in questi impianti centralizzati? Diciamo, da questo tanto poi c'è il cavo che ha tirato in perdita, diciamo che c'è l'isolamento direttamente dentro il cavo, non sull'antenna, ma l'antenna è integra. No, l'antenna non mi hanno mai cambiato in questi palazzi qui di fronte. L'unica che abbiamo cambiato l'antenna siamo lui e quelli di fronte a me. E boh, gli altri hanno tutte antenne vecchissime. Vabbè, comunque vanno a fare il mio TVI qua, lo facciamo su tutti i canali, eh. Io sto guardando tutti i canali, infatti dal primo, adesso sono, ce ne cambia uno, primo, secondo, terzo, neanche uno. E allora, non solo mi fai il TVI, quando lo facevo qua, entrava la mia voce, la sentivo negli altri parlanti dal televisore, non perché disturbarli. Ma vabbè, ma tu non è che stai trasmettendo il digitale adesso? No, sono in questa stanza, sono in analogico, di sicuro sono in cucina. Però comunque per consolare a Mario, a marzo finiscono con l'analogico, che si trasmette solo in digitale, per cui tutti i problemi di YouTube scompariranno. Vabbè, ma se c'è qualcosa la colpa è sempre rotta, No, naturalmente se uso della potenza che la batte non ha niente digitale, perché metto di segnale. Vabbè, io posso essere d'accordo con te, vabbè, che ci sarà il digitale, non ci sarà più l'analogico, però l'antenna rimane sempre la stessa, così che non serve a nulla. No, ma un altro tipo di sistema di elaborazione di segnale, non è che il problema, ma io ho fatto delle prove, sono fatto dei dubbi, dentro casa, che il segnale era talmente basso, attaccato digitale, che avevo solo effetto neve, attaccato digitale riusciva a entrare il segnale a bomba, pieno. E io ho fatto delle prove, col digitale non facevo TVI, con l'analogico facevo TVI. Confermo anch'io. Sì, è così, è un altro sistema, è tutta un'altra cosa. Però già, adesso che ho fatto faccio TV e per nessun motivo. Niente, zero completamente. Le ho fatte tutte le prove, le ho fatte tutte, quindi normali, con potenze, senza potenze, proprio il mio era un problema all'antenna. È un'antenna che usavo. Gaffa. Comunque tu l'hai una semplificata molto, è stata una lotta molto lunga la mia per il TVA. Prima di arrivare a quello che volevo ho fatto lettere al condominio, eccetera, eccetera. Già la lettera che Claudio così me l'ho fatta leggere. Il condominio l'ha fatta a me, io l'ho fatta a loro, mi hanno bussato la porta, il muro, i volti, e per carità. Ma già sul TVA e sulle antenne della CB c'è c'è un capitolo proprio che riguarda le azioni che quello che viene messo la Cassazione, le sentenze, e cioè. E scappa comunque, se non dipende da te posso dire quello che voglio, ma sono sempre scocciati, capito, che vengono a romperti le scatole tutte le ore. Ah, su questo è vero, lo so, ho provato. Va bene, ok, io ho già approfitto questo passaggio, passo in quelli che sono già le 11 passate, che domani poi siamo al centro settimana, chissà perché il mercoledì è la giornata più pesante. No, capisco, è la giornata che è più pesante a lavorare. Va bene, io faccio un saluto circolare a tutti, fratello da Claudio, Roberto, Mario, Gianni, Giovanni che mi dovrebbe esserci anche lui. Mi ho preparato in quarantena, ci sentiamo domani. Saluti a tutti quanti, vai insomma anche a Claudio e passo in quarantena. Allora, ok, d'accordo, ciao Salvatore, ci sentiamo, grazie per le chiacchiere, la compagnia di tutto. Alle prossime, buona giornata per domani. Va bene, allora il microfono per Roberto, fai girare te. Ciao Salvatore, grazie per la compagnia, alle prossime, ciao, passa Gianni. Ecco, faccio Salvatore, buon 144, buon trabatto per domani. Avanti, chi è rimasto, mi spero. Ciao Salvatore. Giovanni e Luca sono d'accordo. Giovanni ha salutato Salvatore, va bene. Ma c'è ancora Mario. Ciao Salvatore. Buon quarantino a tutto. E saluto lì a Querreala. Ci sentiamo domani mattina noi alle 8. 8:10 dovrei essere lì là, così guardiamo quella cosa e poi niente. Arrivai tu Claudio, là. Sì, facciamo girare, vediamo un po' se. Se vuole ritrovare Luca, se si è già addormentato. Luca? Luca si è dormito, va bene. 23:10, Giovanni è in QRX, io vorrei rilanciare a Franco. È sparito, non si è mai ripreso più Franco. No, non lo so. Franco si è arrivato stasera, perché il lavoro che ha fatto non è servito a niente. Comunque, il discorso dell'antenna è quello, non c'è niente da fare. Quando la posizione è quella lì, anche se a meno che l'antenna non sia proprio affitti, ma quella sua stava andando, perciò ha guadagnato molto poco, molto poco. Ok, vabbè, comunque l'importante è che l'antenna sia nuova e che va tutto bene. Poi per quanto riguarda il guadagno, comanda sempre la posizione, chi è favorevole passa, chi non è favorevole rimane al palo con gli altri. Poi la legge è quella lì, la legge, il discorso è quello, non è la legge, purtroppo è così. Va bene, Giovanni, vuoi dire due cose? Non è che mi venga molto bene, perché come prendo in macchina, è ancora fatto con l'idea che me lo faccia da mano. Cosa è successo a Franco, Patrifa? Ma no, niente, abbiamo fatto le prove. Praticamente quello che conosceva prima c'è anche adesso. No. Però qua a me non ha cambiato quasi niente, sì, qualche punto esce, però rispetto a Luca è sempre superiore a Luca, niente, nelle altre zone, sì, come è passato prima, passa anche adesso, però non ha cambiato niente, Giova, quasi niente, proprio un pelino a pelino. Sì, chiaro, la felice è come se arrivasse in base, già arriva abbastanza bene il Franco. Sì, ma infatti sto dicendo, arrivava bene prima, però qua nei miei confronti non ha cambiato assolutamente niente, diciamo che ha più picchi positivi, appena appena di più e basta, capito? Però non so perché, se c'è qualcosa che non va o se tutto a posto, la posizione è quella e basta. Tu immaginati, o Gianni, che io dalla regia 58 al 213 ho guadagnato 2 punti S, capito? 2 decibel, quindi cambiando con la stessa antenna, mettendo tutti i radiali nuovi, ho aumentato un altro punto, perché l'antenna faceva schifo, quindi non io l'antenna non mi ha cambiato, ho lasciato la stessa, però l'ho riparata, l'ho fatta tutta nuova, tutta ripulita, messi i radiali nuovi, cambiato il cavo nuovo e l'antenna va bene. Come io dici a lui, sistemati quella, non fare l'antenna nuova, tanto non cambia niente. Il risultato è quello, capito? Il risultato è quello, lui andava bene anche con quell'antenna, io l'avrei abbassata, comprato i radiali nuovi, tutti nuovi, li avrei tutti messi nuovi come ho fatto la mia, e l'antenna era una camionata. Confiamo il fatto che, attenzione, non sottovalutate la stella, perché la stella c'è una bobina in rame all'interno che tiene 4000 watt, capito? È una signora antenna, quindi quello che volevo dire è che a volte anche cambiando le antenne, mettendo le antenne nuove e togliendone una che sta funzionando, il risultato non cambia. Oh, Claudio. Dimmi, Roberto. Quella stella è quella che c'è di fronte io, l'ho parlato di fronte. Esatto, quella è tutta centrale radiale, quella centrale radiale che c'è solo il tivo centrale, quella comprando i radiali in alluminio, come ho fatto io, dello stesso diametro, si innestano, si contrappanina la batteria come ho fatto io, le fai fuori linee, metti le vite autofilettate, tutta la sistemi mi fa bene, io praticamente ho fatto un lavoro tipo quello che abbiamo fatto noi, vabbè, in più siccome io non c'ho la bobina, perché c'è la qualificazione unica, praticamente ne ho scesa il piantone, me lo sono messo al banco e ho forato tutto, ho fatto i forellini nuovi, ho messo tutti i radiali nuovi e poi l'ho rimessa in setto. In più ho fatto il lavoro che abbiamo fatto a te, solo che il filo mio era fuori, quindi l'ho disallato e anziché mettere l'attacco PL, no? L'attacco PL, io sopra c'è l'attacco N, ho tolto l'attacco PL e ho messo l'attacco N, quello grosso, quello degli attacchi N, no? Gli attacchi N già li conosci, sono quelli che hanno praticamente l'innesto rapido, ecco, io con la regi 213, con la cassetta sto andando anziché su nell'antenna l'attacco PL, il PL normale, io ho un attacco N, di quelli a presa rapida, che tengono potenze molto più elevate, sono molto più affidabili, ma questo l'avevo fatto io nella mia antenna, però la mia antenna era da buttare via, l'ho fatta e va bene, capito? A volte che si accorgimenti bisogna stare molto attenti, però così, l'antenna nuova funziona per antenna nuova, l'antenna vecchia funziona per antenna vecchia, capito Giovanni? Ma siamo andati in un drogno, qualche picco positivo in più, ma il discorso non cambia. Quindi Claudio, come la recuperarla con la sonda? Non posso parlare tanto della lampada. Ma se la lampada fa travare ce la facciamo nuova la faccio con l'antenna io, è una signora antenna la stella. Adesso di conservarla. Cosa Mario? La stella. La stella è una signora antenna. Anche perché, ti ripeto, c'è una bobina, roba che è allucinante, ha una bombina a bicchiere, e c'è questo avvolgimento che praticamente, ha visto quel rame che abbiamo tolto noi stamattina, è 3 volte più grosso, è un'antenna che tiene 4000 watt, è una signora antenna, come verticale è una signora antenna, capito? Capito, Giovanna, cosa stavo dicendo, tutto lì. E la mia dove l'hai comprato? Ma la rosa, prendete voi anche qua, non posso andare oltre con questa qui. Guarda, io guarda, quando inizia a parlare, ce la fa sentire. Mamma mia, già parla. Ma cosa c'è, Giova? 14 mesi, ma è un terremoto. 15 oggi mi ha fatto, mia moglie mi ha corretto. Lo sai dove avete qua? Come si chiama? Chiara. Ah, ma auguri. Vabbè, ce la vedi, non ce l'è. È una mammolina, troppo bella. Ce la do qui sempre, un bariscio. Troppo bella, poi simpatica, guarda, una cosa allucinante. Quando sei sorriso, se lo metti qui, come se da barba, mamma mia, vorrebbe dalla mossa. Ui, ui, ui, no, vabbè. Poi mi pigliano di sono vibrante che hai, ti aspetta, ti va. Così la insegni a mettere il microfono in mano, ti chiama, rola, rola, rola. Rola, rola, rola. Ehi, pupu. Tu? È poco bottuto qui, è poco bottuto. Sta bene in caldo. E voi, hai birrati? No, mi chiede da tua, la sta verità si dica. E se li vendi? Ah? Questa tua, io non sai, ha fatto scattare. Ah, scattando te. Mi guarda che abbiamo pensato anche, oggi ho sistemato anche a Roberto, noi qui siamo in due, vai Roberto. Ciao, compagno, sono la tutti con questa radio. Ma non sta bene. No. E che bella vita, si dica. Mi ha dato la ieri. E ha voglia qua. Va bene, non mi cazzuola. Questo chi è? Questo è Chiara. Chiara? Saluta il tuo caso, saluta. E così non va bene, già lo sai. Oh, ti faccio schiettare la Rossi, già lo sai, no? Schiettare, no? La Rossi. Tranquillo, la modulazione non è super amplificata come certe modulazioni che sono anche troppo amplificate, è una voce naturale un po' amplificata e va benissimo. No, a me non mi piacciono troppo furti, a me piaccio normale, naturale, ma adesso non mi posso ascoltare, però se fosse importante la batteria. Come non ti fa ascoltare il PA, non ce l'hai. E come? Il cazzo del PA ce l'hai. Ma no, ma sul baracchino. Io. No, no, non ce l'ho. Ah, scusa, sì, sì, ce l'ho, dietro, un attacco dietro, il baracchino sta facendo, con le cuffie. Sì, che ce l'ho dietro, no, no, scusa, ho sbagliato. Dove c'è l'interruttore? CBPA. Sì, sì, c'è l'interruttore, ma adesso sta pensando a un'altra cosa, scusa. Ecco, tu lo metti sul PA, ci metti le cuffie e ti ascolti. Ciao. Ricordami, vabbè, lo facciamo... E facciamo anche i canali sotto con la radio quando abbiamo due minuti, tanto è una fesseria, lì c'è il 40 normale più 40 sotto, nel caso vogliamo fare qualche prova, si può andare anche sotto l'uno. Ciao. Ho fatto al mio, io all'inorite, una fesseria, utilizzi il tappo CBDA praticamente, ti sposti 40 sotto e 40 sotto. Così c'è qualcosa in più, inizi anche a viaggiare sotto, a volte c'è molta propagazione sotto. Ti ho visto Antonio, si è chiamato l'antenna, ha chiamato tutto anche a Roberto, poi ce l'ha piazzato anche Franco, adesso aspettiamo Tino, per una piazza a Tino poi siamo tutti al completo. Va bene, allora Mario riprendi, dai, già non ti addormentare, un altro passaggio tutti. A voi già andiamo a cuccarsi. Non mi servivo. Se ne è andato solo. Chi è che se ne è andato? l'hanno salutato che avevo ammazzato perché mi avevo sforato il campanello. C'era Giovanni con Ricci, c'era la bambina, Salvatore è andato via, ma non è nessuno ammazzo. Avanti Antonio, cosa è piantato la lampella? No, sta casa di mamma oggi. Vabbè, l'hai controllato, c'è tutto a posto, antenna, tutto. Tutto a posto adesso. La vettura è stata anche il walker, c'è l'antenna con la piccolina, il punto che mi serve. Adesso fa poco, sta qua qua e poi il buio sono di là. Via via, e ormai no. Ormai siamo in tre qua, uno vicino all'altro. Come vecchi tempi, stranamente ce l'avevamo io il tuo scogliato. Oggi è vero, ma vedo, sì, comunque a bar, eravamo io da solo, già c'ero. Ah sì, lì ero, guarda, da Sonia hai. Appunto. Appunto. Non c'era nessuno, scusa Ti ho invitato perché vuoto se mi è venuto, comunque. Pazienza. Ci vediamo l'altro giorno. Antonio, stamattina ero assieme a Roberto che abbiamo sistemato l'antenna. Poi il pomeriggio sono riandato nuovamente da Roberto per sistemare la radio. Poi mi sono avvicinato da Franco, stavo cercando l'antenna e mi sono trattenuto lì, sono arrivate cose che erano le sette passate. Se sapevo che lì sarei passato, figurati, non c'è un problema. La prossima volta io mi fermo. Gappa gappa. Beh, signori belli, ho sapete cosa dice che lo vero, che chiude tutto e ce ne va a nanna, sono 11:30. Sono stanco molto, Vi saluto tutti, Gianni, Roberto, Giovanni Mistero, compreso la signora, e un bacio alla pupetta, Antonello, Mario, Gianni, chiunque fosse l'ascolto. Buonanotte a tutti, a domani, sempre in queste condizioni. Bye bye bye. Gianni, a te l'onore di far completare questa ruota, cambio passo compro. Sì, ciao Claudio, buon 144 e buona giornata per domani. Dai, avanti Mario. Ciao, ciao Claudio, buonanotte, buon tutto, ci riascoltiamo domani. E rilassati domani almeno, Domani non ti pigliare impegni, rilassati, anche se no da poi solo rivedendo, mica io. Ciao Claudio, alla prossima, buonanotte. Ma non ti preoccupare, quella cosa non mi sono dimenticato. Ragazzi, interrompo anche io, che non mi rendo conto pure a me. Saluto a tutti, Mario, Gianni, vado a salutato, Giovanni, e chi c'è là fuori, tutti quelli che stanno ascoltando. E poi la facciamo bene, buonanotte anche a te, dai. Mario, non rilancio per i saluti, là. Rimaniamo solo io e Alessio adesso. Poi rilancio Alessio perché Alessio non l'ha salutato. Ecco. Ciao Roberto, buonanotte anche a te. Noi ci riascoltiamo domani, dai. Vai ai pupù. Poi ti devo dire cosa, mi pupù. I fantasmi ci sono. Non lo so anche a me. Mario, riprendi, Cosa vuoi riprendere? Cazzo, a me quando mi bussano la porta mi buttano a terra. Perché non riesco a capire come mai. Questi signori mi hanno deciso di cambiare la terra, non possono sempre rompere le palle a me. Mario, l'ho provato anch'io con le cose, so cosa vuol dire. Lo so cosa vuol dire. Tutti mi dicevano, ma scusi, un cagnone se l'hanno partito fuori di gas, non li fanno anche entrare. Io gli davo la soddisfazione, a volte non stavo modulando e venivano anche quando non stavo modulando a dirmi che mi disturbavo. Un giorno gli ho detto, uno, venga dentro, anche se c'era il camera da letto, glielo faccio vedere. No, non c'entra il camera da letto, non c'entra, non venga, glielo faccio vedere, ce lo fa, siccome gli metto un telo sopra quando finisco di modulare, per non prendere la polvere. C'è ancora il telo sopra, e ti ho visto che lo sono io. Adesso ho fatto la domanda, qui non è l'antenna che svizzia, questo e quell'altro, si è ricreduto. Però vabbè, è da fastidio perché, cioè, su 9 portoni io sono in mezzo. Tu immagini che a me in mezzo e poi gli altri portoni, te li hai visti come sono qui, no? E così che, niente, adesso lo disturbo, sono quei portoni lì. Ma orario, magari hai capitato qualcuno che è attaccato, capito? Aspetta, per 600 watt e magari è entrato, in quel momento lì e basta, capito? Penso veloce dopo un'ora. Sì, ma tu li dovresti dire, ma quando? Ma sempre lo disturbo, oppure in questo momento sono qua. Ehi, vabbè, da adesso Claudio mi prepara il modulo del versamento, quindi me lo faccio, chiedo il rinnovo, quello in cui si mette a cagare, non se ne parla più. Infatti, tu lo sai cosa devi dire? Mi ha detto, signore, lei non deve venire a bussare la porta a casa mia. Lei deve fare domanda con me, a cambiare l'antenna, una volta il cambiare non succede più nulla, perché io... Yeah, non ci avevo creduto, quando c'è avuto il tecnico per smontare l'antenna ci vengo davanti, me ne farà da pezzi, credimi, a pezzi, se non avessi visto non ci avevo creduto, ma per volare quella farfallina del cielo, che tanto l'antenna farà? Sta pagando, poi me ne lo so, io su qui ci sono i tecnici qui, il nome è palazzo, mi sembra che la sera abbiamo cambiato il tre palazzi. E mi ha montato un affraccato, che sono tra le migliori antenne che ci sono. Allora, comunque c'è la centralina fra carro. Ecco, papà. Oppure, sì, sì. Dimmi. Stavo dicendo, come cosa finita lei, no? La verità no, perché c'è un casino qua vicino a casa. Ascolta. Oggi sono venuti quelli del palazzo di dove abitava Antenna 1 a dire che si disturbava il televisore. Se sono i portoni, molto non sono disturbati, è uno sì, da che cosa dipende? Dalla loro antenna? No, dal televisore, la libertà, scusa. Tutto sono come si deve da te, no? Cioè, l'ultimo no, quindi la tele è il suo. Non hai capito. Allora, nove portoni, nessuno è disturbato, nessuno viene a dirmi niente. Quelli del portone dove abitavo, se no uno vengono a dirmi che io disturbo. Come è possibile? Il palazzo allora è discorso diverso. E il palazzo lo sai, non hanno mai cambiato nulla. Non mi piace, con la fuga a te. A me me ne frega perché ogni due volte vengono a votare a me. Comunque non so per me tu, quello me l'ho. Gappa gappa. Cosa vuoi dicendo? Io, tua sorella, tutto a posto? Secondo me se un condominio solo Mario può dipendere anche dal suo televisore, ma visto che al plasma nessuno non pensa di essere televisore, perché il televisore è nuovo. Più che altro se hanno un'antenna centralizzata è quello. È capace, non c'è una centralizzata lì. Però dice che si parla tutto il televisore, si sente la mia voce. Adesso come faccio non ho capito, però loro mi hanno detto quello a me. E non so che cosa dire io, perché purtroppo non sono tecnico. È un ritorno di radiofrequenza, quello di sicuramente. È un rientro di radiofrequenza. Probabilmente tu con il microfono amplificato entri. Usa il microfono normale, prova a usare il microfono normale, perché anche l'amplificato vuol dire. No, io adesso ho quello normale, da. Che... ho staccato anche l'arco, sto stato usando un Etec. La potenza a volte fa brutti schifo. Sì, ma io dico questo, se la potenza disturba tutti, non uno solo. E disturba quello che magari o che c'è davanti, o che ha l'antenna più messa male, capito? Esatto. Ora se pure, non saprei cosa dire, infatti... volevo vedere se era stato cosa l'avevo chiesto anche a lui, a vero, a Antonio, che serva. Ma io guarda, ne ho passati per periodi, io sono passati 4-5 mesi, sempre lontano. No, questo qui, da quando sto modulando, è già la seconda volta che vengono. Sempre la stessa famiglia. E allora? Non è colpa tua, diventa più un filtro nella TV. No, io mi ricordo così, mi cambiasse il coso, mi cambiasse. piacciono anche la televisione. Vabbè, perché sicuramente io penso che sia da quello. Ma se non devi centrare la non c'è un digitale, se non sei in digitale, se non è che non lo prendi K. No, io ce l'ho sul digitale, anche se non è collegato, però no. No, io ce l'ho collegato. Io quello di fronte ho detto, prova a mettere il digitale, provate a non mettere rotto le scarpe. K, meglio così. Poi quando hanno cambiato l'antenna ha migliorato tutto, abbiamo fatto tutte le prove possibili e immaginabili. Comunque questo com'è, scusa? e poi ho sentito prova. 1, 2, 3, prova. Io sento tutti, già. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ora si sento bene, ora ti ho sentito 1, 2, 3, prova. Poco fa sentivo 1, poi prova. E beh, come se io, questo è l'altro. Questo è più forte come microfono. Almeno. E allora c'è la batteria a terra. E beh, qualcosa c'è. Comunque, se, con questo qui si è più forte, più chiaro. Ecco, questo è l'originale. Esatto, esatto. Sì, ma se mi chiama di appollarci a questo apparecchio, non vedi quanti esci. No, io devo vedere quello mio, l'Argus. Mi sembra che la radio non spiega come dovrebbe spingere. Ma è rimasto in sedicello, se non è stato la radio la sentivo come se fosse a sarsa, se non è detto. No, spiglio benissimo, è molto forte. È una roba che sarà. Boh. Eppure mi sembra che quello di Luca spari di più come radio. Sì, quella Luca spara, ma è tutta toccata con la radio. C'era un camionista, mi ha fatto venire dal Mimi, quella di Giacuzzi. Sì, io non so che gliel'hai fatta avere tu, però quello che voglio dire io è che quello lì spinge a me come a radio. Non tanto come segnale, ma come a radio spinge la radio. E niente segnale, mi ci fate le radio, mi non ti credo che sia poco, è tutta camuffata. C'è di cifrate, c'è l'eco, la radio amplificata bene, un sacco di roba. Sapere positivo. Infatti io stavo dicendo a Claudio che secondo come volevo controllare se voleva perso l'elettricità, o no, che era servizio. No, io gli avevo segnato l'elettricità, basta guardare, c'era uno schermino, c'è scritto amici, c'è scritto pure. C'è davvero che c'è vicino in plastica, c'era tutto quanto da doc. Ma comunque, secondo me non hanno chiuso queste bici, non è vero che non è più forte questo apparecchio. Anche non c'è scritto del radio. Boh, che è strano, eh. Non sono uscito. Adesso esco. Quello sta toccando qualcosa, perché ogni tanto sparisci. No, ho l'impressione che non calchi bene il tasto. Può darsi pure che sia così, non lo so. No, perché ogni tanto mi sparisci, sento uno, poi il due non lo sento, sento il tre, e ti sento spezzettato, molte volte non ci capisco nulla. Sì, ho un tasto come se seguire questo apparecchio, capito? Perché poi se tu lo prendi dal centro non calca bene, capito? Allora come il mio, io lo premo dalla punta di giù in modo che prema bene. Infatti, sono più a volte l'abitudine cose con l'altro, quando me lo riesce, e il toccaccio era sensibilissimo, e certo il toccare rimane. Ecco, poi a fare il toccare è buono per come l'altro, anche se siamo in situazionali. E poi 5024, nuovo, fiammante, se non mettono bene. No, non me ne faccio niente, io te l'ho detto, io mi dovrei fidare un bel cable e un bel microfono da tavolo che spinga bene la radio e boom. Vabbè, se prendi il cable delle mie 60 è l'unico. Non è l'unico, no. Se tu puoi, per esempio, che c'ha quello che stava dicendo Claudio, come si chiama? La saletta. No, la saletta, sì, vabbè, ma perché gli apparati lì sono professionali, gli amici 80, 60, eccetera, eccetera. Io non preferisco sempre 60. Ecco, magari, lo vedi che le cose che ha messo il corso, che ha messo la metro 100. A che cosa? A che cosa? Che mago di genere? Sì, avanza quello da quelle rette, sono quelle rette. Sì, a casa di fatto ci sono andate sotto la c'è. Ma lui ha detto che gli ha messo attaccherei a Verona, la metro 100. Ma perché l'abbi fatta adesso? Però prima non era così. L'altro giorno, quando tu gli hai dato un pezzetto, lui ha adattato la metro 100 per il tempo. Sì, non c'è si adatta, non è che non si adatta. Mi sembra un po' strano. Comunque, può darsi pure, non lo so. E io gli ho dato praticamente tutto il microfono, tutto scarto, tutto quanto gli ho dato. Mancava il cavo. Ecco, no, il mio c'è il bicetti che non va, è buco, il resto funziona bene. No, io di quello mi ho preso solo lo slider, perché ce l'avevo imballato nell'altro. E io ho messo lo slider di quello, perché se si gioca con la due io. Ci ho seguito tuo figlio. Perché lo sto disturbando. Perché in modo lugare invece che vuole non si lascia fare? Sì, perché lui l'ha messo qui con la stella, con la magia. E allora mi ha detto dove lui non può far niente, se no è un caso di già. Ma non si sta facendo con la marina? No, adesso gli ho messo quella esterna, gli ho allungato il filo e con l'esterna. Papà, va. Vabbè, Mario, va, saluto. Buonanotte, sentiamo. Davide, buonanotte a te, dai, ti ho tolto l'impiccio, va. Gappa, gappa, va pure, dai, buonanotte. Buonanotte, Mario, ciao.